Non ci sono più le mezze stagioni, con me Roberta Giordano e con i vostri commenti sulle notizie della settimana. E in questa puntata, in compagnia di, signore e signori, Giorgio Mulè, direttore di Panorama. Quante cose avrà da dire sui molti fatti di questi giorni, tra la complicata trattativa sul lavoro e gli italiani, secondo il Censis, sempre meno propensi ai consumi sregolati, anche perché di soldi non ce ne sono. Non perdetevi dunque il suo punto di vista. Non ci sono più le mezze stagioni, sabato alle 14 su Radio 24. Anche sul canale 700 di Sky.